La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Bentornati, non bentornato io, ma soprattutto bentornati perché siamo in ascolto diretto. Questa stagione fino a luglio dell'anno prossimo, Sole, il gruppo Sole, quindi Radio 24 mi ha chiesto di raddoppiare il nostro appuntamento pomeridiano alla versione di Oscar. Quindi dalle 16 alle 17 fino al prossimo luglio siamo qui per tenerci compagnia. Io vi ringrazio l'ascolto diretto in podcast. Vi dico subito, vedremo a seconda degli argomenti delle puntate se tocchiamo uno o due argomenti. Oggi sono due, ma vi dico subito, se volete telefonare, uno di questi, quello su cui più mi interessa la vostra opinione, per telefonare 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666, perché nella seconda mezz'ora ci occuperemo di un punto molto delicato che avvampa sui giornali, e cioè il rapporto tra reati e delitti compiuti da stranieri e il totale dei reati e delitti italiani. Io ve lo chiedo fuori dai denti, siccome i giornali due giorni fa hanno riempito pagine su una cifra in particolare, dopo la orrenda vicenda di Rimini, a cui sono stati assicurati alla giustizia adesso i quattro criminali autori delle violenze sessuali e delle rapine. Ma poiché delle 11 in media in questo periodo violenze a donne quotidiane in Italia, 4 su 11 sono compiute da profughi, immigrati, stranieri, 4 su 11, mentre il totale degli immigrati nel nostro paese, lo sapete, è poco sopra il 9% della popolazione. Ecco, questo 4 su 11 io voglio sapere che cosa vi evoca. Vi chiedo solo, ovviamente, di darci opinioni ragionate, non troppo di pancia, ma insomma è un problema serissimo. Come pensereste di affrontarlo? Da cosa deriva? Con l'integrazione lo risolviamo, oppure che cos'altro bisogna fare? Prima di questo, perché in questa seconda parte della trasmissione ne parleremo con il sociologo Luca Ricolfi, ponendoci il problema, attenzione anche alla percezione che sui media si scatena su questo, vedrete alcune cifre ci dicono che i media tendono un po' a gonfiare, ma certo i fatti ci sono, e vi ho detto, delle 11 quotidiane in media 4 sono compiute da stranieri. Nella prima metà però, e cominciamo da questo, un resumé su uno dei temi che più hanno dominato nelle ultime due settimane, e cioè il bilancio, ora che la ripresa italiana si va consolidando e per fortuna verso l'1,4-1,5% l'anno, il bilancio, diciamo così, dei tre anni del Jobs Act per quello che riguarda l'occupazione. Sapete le cifre, ma ve le richiamo in breve. Abbiamo due ospiti. In questa prima parte facciamo il punto, come è mia abitudine, e continuerò a farlo e a ringraziarlo, con il direttore della Fondazione ADAP, perché la Fondazione ADAP tutti i giorni si dà a fare in Italia, non solo sui media, per interpretare meglio gli andamenti e i dati del mercato del lavoro italiano. Poi avremo Luigi Marattin, economista all'Università di Bologna, che è consigliere economico della Presidenza del Consiglio. Abbiamo nell'ultimo consolidato fotografato dall'Istat sull'occupazione italiana quasi 900.000 occupati in più in tre anni, 800.000 e rotti. Il problema è che gli effetti della decontribuzione venuta meno si stanno avvertendo. Il problema è che in particolare i contratti a tempo determinato tornano, e nel tempo è sempre stato più così, a essere dominanti, e il bilancio per i giovani è un bilancio negativo. Allora, il problema è come leggere queste cifre e soprattutto come intervenire nella prossima legge di bilancio negli anni a venire di fronte a questi problemi che le cifre confermano. Certo, meglio averci gli occupati in più, ma senza dimenticare quanto ci sono costati con la decontribuzione aggiuntiva. Io ho sempre pensato che andava utilizzato meglio questo ammontare di miliardi di euro. Non è stato ascoltato chi dall'inizio diceva attenzione, perché la decontribuzione avrà un effetto sicuramente di accelerazione, ma non interverrà a modifica della composizione del mix di tipo di contratti determinato e indeterminato. La sorpresa oltretutto è stata vedere quanto di questo effetto aggiuntivo di occupazione si sia concentrato negli over 50 anni. Allora, intanto iniziamo da Francesco Seghezzi, e grazie ancora per quanto fate con ADAPT. Buon pomeriggio e grazie a te. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Tu hai fatto, e io partirei da questo, una ripartizione per classi, per corti anagrafiche, degli occupati aggiuntivi appunto di questi anni. E in questa ripartizione l'occupazione aggiuntiva di questi anni è andata al 51% a vantaggio degli ultra cinquantenni, rispetto al 10% tra quelli tra 15 e 24 anni e il 12% tra 25 e 34 anni. Questa ripartizione a cosa si deve ed era prevedibile? Allora, il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di provare a purificare dalle componenti della spinta demografica verso l'invecchiamento della popolazione, che è quella che conosciamo, i dati sulla ripresa occupazionale degli ultimi 3 anni, perché tante volte si dice che gli occupati in più si sono concentrati negli over 50 in quanto la popolazione sta invecchiando, ci sono più lavoratori o comunque più persone nelle corti d'età più avanzate. Noi abbiamo provato a purificare dalle variazioni delle corti d'età ed emerge che anche a fronte di questa purificazione c'è una forte concentrazione. Dal nostro punto di vista la spiegazione logica di questo è che non è saltata soltanto la decontribuzione, non è stato soltanto il Jobs Act inteso come intervento sui contratti a tempo determinato e poi sull'articolo 18 a generare la ripresa occupazionale, ma in qualche modo è stata la riforma Fornero, come abbiamo spiegato già in altre occasioni, che aumentando l'età pensionabile fa rimanere al lavoro più persone sopra i 50 anni e questo aumenta il numero complessivo degli occupati e allo stesso tempo diminuisce il numero complessivo degli inattivi, perché statisticamente il pensionato è considerato inattivo e quindi se il gruppo storico dei pensionati va a ridursi perché c'è meno gente che accede alla pensione, questo fa sì che il numero degli inattivi diminuisca. Quindi tutta questa dinamica genera questo e questo in qualche modo aiuta a spiegare anche, non totalmente ma in larga parte, l'aumento della componente di contratti a tempo indeterminato sui nuovi occupati, perché sappiamo che più una persona è matura e ha un'anzianità all'interno dell'azienda, più è probabile che abbia un contratto, diciamo così, stabile. Quindi aumentando sul totale il numero dei lavoratori over 50 aumenta con essi anche il numero di occupati a tempo indeterminato. Quindi di certo la decontribuzione ha portato qualcosa, ma almeno la metà dell'aumento è dato dalla riforma Fornero, il che è positivo. È però un giudizio, come giustamente diceva lei, un po' luce ed ombre sui costi della decontribuzione e i benefici. Mentre aspettiamo che ci raggiunga Luigi Maratin, seconda domanda. Andiamo a vedere al di là del bilancio Jobs Act decontribuzione, dato strutturale. Se vediamo la tabella Eurostat per gli occupati giovani, cioè corte stiamo parlando 15-24 anni, alla fine del 2016... nell'Europa 28 gli occupati tra i 15 e 24 anni erano il 33,8%, il 31,3% nell'Euroarea, il 50,8% nel Regno Unito, il 45,7% in Germania, poi la Francia 27,8%, la Spagna che ha una disoccupazione che sta rientrando ma è terribile per gli effetti della crisi, ecco la Spagna è il 18,4% di coloro che stanno tra i 15 e i 24 anni occupato, l'Italia il 16,16%, andava peggio di noi solo la Grecia col suo 13%. Allora questi sono dati strutturali. Siccome si parla di ecco, ci ha raggiunto credo Luigi Maratini, professore che insegna economista all'Università di Bologna, consigliere economico Presenza del Consiglio, grazie di essere con noi professor Martin. Buonasera. Allora faccio a lei subito dopo, perché non so quanto mi abbia ascoltato la domanda, ma stavo semplicemente riepilogando, abbiamo rivisto il bilancio dell'occupazione aggiuntiva del Jobs Act e adesso stiamo passando a una riflessione strutturale. Vista la differenza che rimane altissima negli occupati tra 15 e 24 anni come corte anagrafica rispetto agli altri paesi della media dell'Unione Europea, e adesso arriva una prossima legge di bilancio, la domanda diventa: è chiaro che i nostri ascoltatori sanno qual è l'intenzione del governo, la decontribuzione per almeno 3 anni del 50% per i giovani, poi la vedremo quando ci sarà il testo, ma un dato strutturale di questo tipo, oltre all'eventuale decontribuzione aggiuntiva a tempo, poi speriamo strutturale, vedremo, di che altre politiche ha bisogno? Sentiamo prima l'opinione di Seghezzi e poi sentiamo Maratin. Allora, io parto da un dato che è quello diffuso a Confartigianato settimana scorsa, più o meno preciso, in cui comunque si dice che ci sono almeno 120.000 giovani cercati dalle imprese e che in qualche modo non riescono a trovare, soprattutto nelle competenze relative alla meccatronica, all'elettrotecnica, quindi comunque nel mondo industriale o comunque dell'artigianato avanzato. Questi lavoratori non si trovano, quindi in qualche modo c'è un problema che noi conosciamo, che è storico, di incontro tra domanda e offerta. C'è un problema che riguarda l'offerta formativa della scuola superiore dell'università, non professionalizzante. Esatto. E io dico, il dubbio che mi viene è che la decontribuzione in fondo non vada a incidere, direi, in alcun modo su questa dinamica, ossia, detta più in generale, sulla dinamica della transizione tra scuola e lavoro, che è sempre più un incubo e si fa fatica a trovare lavoro in breve periodo, ma anche nel lungo periodo. La decontribuzione in qualche modo è come se invece agisse unicamente sui costi e non sulla struttura del mercato del lavoro, che ha delle dinamiche più complesse. Allora, fermiamoci un secondo, qui c'è un problema. Seguezzi ci dice, in questa bassa partecipazione comparata, perché questo è il fatto, come elemento strutturale dei giovani fino a 24 anni al mercato del lavoro, c'è un problema che è la bassa offerta formativa, qualità dell'offerta formativa della scuola. Che dice il professor Martin? Perché io capisco, ci occuperemo di qui la legge di bilancio della decontribuzione, però vediamo gli strumenti per tentare in un programma pluriennale di diminuire questo gap. Lei che dice? È questo il primo problema, l'offerta formativa scuola-università? Sì, chiedo scusa innanzitutto per la voce, ma sono vittima di un malanno di fine estate. Ci dispiace. No, guarda, c'è un problema di costi, che è quello che si cerca di affrontare con la decontribuzione, ma è evidente che c'è un problema strutturale, quello che veniva detto prima, di mismatch. Allora, su quello non è che si è stati fermi finora, ma sicuramente occorre fare di più, perché la tanto vituperata alternanza scuola-lavoro, che un po' nella rappresentazione mediatica è stata dipinta come si sfruttano gli studenti, si fanno fare le fotocopie, invece, che poi è stata finora fatta come sperimentazione, ma parte strutturalmente quest'anno, è proprio quello che serve per cominciare a costruire un ponte fra un sistema formativo che risente, nonostante le riforme degli ultimi anni, ancora di un impianto molto separato dal mondo del lavoro, e il mondo del lavoro stesso. Poi, rispetto alla Germania... Aspetti, ma basta, secondo lei, oltre a questo, si è espresso con grande chiarezza, potenziare l'alternanza, 400 ore obbligatorie o 200 ore obbligatorie, secondo che siano le due diverse grandi indirizzi di fondo della secondaria, questa è stata la buona scuola che ha fatto, ma oltre a questo, non serve rivedere un po' dalle fondamenta e curricula dell'università e della scuola superiore? Perché significa ripensare, non solo con l'alternanza, proprio ripensare tutto. Ma guardi, sì, stavo completando dicendo che l'altra cosa che serve, è quello che ci separa dalla Germania su quel versante, è il buco delle scuole tecniche, che anche qui stiamo cominciando a colmare, ma con un po' di timidezza, perché da noi siamo ancora vittima del pregiudizio secondo cui se sei bravo vai al liceo e poi all'università, preferibilmente a fare giurisprudenza. Abbiamo un gap di conoscenze matematiche, perché abbiamo pochi insegnanti di matematica, perché siamo ancora vittima di una cultura secondo cui non posso pagare di più un insegnante bravo in matematica, perché tutti devono essere pagati in maniera uguale. Riguardo all'università, non so se è noto, io sono un eretico, io sono convinto che serva soltanto una riforma, cioè la fuoriuscita dal regime di diritto amministrativo, perché le università sono realtà di mercato. Realtà di mercato non vuol dire che obbediscono a Marchionne, vuol dire che competono sia per gli input che per gli output, e il diritto amministrativo non è un'infrastruttura giuridica fatta per regolare il funzionamento di realtà di mercato. Lei lo sa che siccome la pensa come lei, ma temo che noi saremo in minoranza sempre. Siamo in due io e lei, perché però insomma, meglio pochi, come dire. No, va bene. Cioè i sindacati la bruciano su questa posizione, però vabbè. Però ai sindacati va spiegato che in Inghilterra le università sono pubbliche, esattamente, e di diritto, sono di diritto privato. Berkeley è pubblica anch'essa in California, lo so. Quindi andrebbe fatto questo sforzo culturale, è chiaro che lo va fatto con un aspetto politico in grado di prendere di petto temi del genere, però onestamente vedo ancora qualche problema culturale ad affrontare certi nodi. Le scuole tecniche mancano, o le competenze, i nostri laureati sono pochi più che altro nelle discipline scientifiche, perché non si iscrivono alle facoltà scientifiche, perché siamo deboli in matematica rispetto agli altri paesi europei. Allora una politica illuminata dovrebbe potenziare il reclutamento di docenti delle scuole superiori di matematica, se necessario anche differenziandone la retribuzione, ma questa è vista come una bestemmia in grossa parte del mondo sindacale. Quindi ecco, occorre una guida politica in grado di contemperare le esigenze e provare a far fare qualche passo avanti. Oltre a questa problematica, ma essenziale, cioè si vede nei fatti che c'è un problema sulla qualità dell'offerta formativa non professionalizzante delle scuole e università, Seghezzi cosa aggiungerebbe come politica strutturale? aggiungerei che oltre appunto a quello che è stato detto c'è anche un problema che è poi di incontro tra il mondo del lavoro e il mondo della formazione e di come questo avviene. Rispetto alla scuola secondaria, tutto il tema dell'alternanza è quello che si sta facendo, adesso vedremo quando entrerà in regime definitivamente su tutti i 3 anni cosa si farà. Io dico ad esempio che c'è tutto il tema dell'apprendistato di primo livello, quindi non l'alternanza tramite tirocinio, tramite stage, ma tramite apprendistato, quindi con un contratto di lavoro, che è una forma contrattuale che esiste ma che spesso non si utilizza. Posso farle una domanda secca che poi replicherei anche a Maratin? Secondo lei la logica della decontribuzione del job set ha penalizzato l'apprendistato professionalizzante o no, Seghezzi? Senza dubbio, nel senso che i dati lo mostrano, l'apprendistato professionalizzante è calato molto nel 2015, abbastanza nel 2016 e sta salendo molto oggi nel 2017 in cui non ci sono più gli incentivi, e sicuramente tra Garanzia Giovani che aiuta molto chi vuol fare i tirocini e questa nuova decontribuzione da gennaio 2018 che va a incidere sul costo del tempo indeterminato, sicuramente cannibalizzare il... Sentiamo Maratin sulla stessa domanda, perché l'apprendistato professionalizzante penalizzato nei numeri insomma non ha aiutato, però dall'altra parte nel sindacato, nella CGIL per esempio, si dice ma signori miei non cadete dal pero, perché prima l'apprendistato professionalizzante penalizzato in questi anni era il canale attraverso il quale più che fare formazione le imprese era quello lo strumento per abbattere il costo, e quindi che pensa Maratin invece? No, penso che sia uno strumento che può dare molto di più, che ripeto è stato probabilmente penalizzato in questa fase ciclica dalla decontribuzione triennale, ma che appunto dobbiamo metterci d'accordo su cos'è esattamente, se è un modo per abbassare i costi, cosa che io non credo sia debba essere, certo, o se è un modo che allora si innesta nel filone di prima, quindi alternanza scuola-lavoro oppure una maggiore grado di professionalità nelle nostre scuole tecniche, che serve a... sta nel pianeta, diciamo, unione fra quando uno sta sulla porta d'ingresso del mercato del lavoro e nella porta d'uscita del sistema formativo. Probabilmente su quello c'è da fare ancora una riflessione. Faccio una domanda ancora questa uguale a entrambi. Abbiamo tutti capito, l'ho ricapitolato prima, a che cosa pensa il governo, e in particolare Padoan, Gentiloni, Morando, poi il PD aggiunge altre proposte, ma insomma rispetto alla decontribuzione 50% per i giovani nei 23 anni, poi vediamo se si riesce a renderla strutturale. Faccio un'altra domanda, perché a me la logica del bonus a tempo non mi convince. Io sono alla ricerca di soluzioni universali e permanenti, cioè quelle che non inducano gli operatori del mercato, le imprese, le famiglie eccetera eccetera a tesaurizzare piuttosto che a spendere e investire credendo davvero che poi resti per sempre. Siccome non si può differenziare la tassazione per età, su questo bisogna sapere che c'è una giurisprudenza della Corte Costituzionale che dice di no. Sui contributi si può, perché i contributi hanno una natura controprestazionale, quelli rispetto alla previdenza. Allora, rispetto a una contribuzione a tempo, perché non pensare a un sistema permanente, che avrebbe dei costi aggiuntivi da coprire all'inizio, esattamente, ma per il quale si stabilisce per equità intergenerazionale che all'inizio dell'esperienza contributiva, cioè per i più giovani, l'aliquota è inversamente proporzionale all'anzianità contributiva, e man mano che procede l'anzianità contributiva l'aliquota sale in maniera tale che nell'arco di vita prima della maturazione dei requisiti della pensione ciascuno paghi in termini attuariali esattamente quello che paga adesso, ma con un incentivo strutturale e di equità intergenerazionale, perché significherebbe che col procedere dell'età contributiva il contributo sale, anche se non restasse al 33% perché va diminuito, ma voglio dire sale rispetto ai più giovani. Una cosa di questo tipo, che sarebbe la dimostrazione concreta dell'equità tra generazioni, per Seghezzi sarebbe impraticabile oppure è una sciocchezza? In linea di massima sono d'accordo. L'unico aspetto critico che vedo è che, essendo che noi andiamo verso un mercato del lavoro che è molto più frammentato di quello che è sempre stato, e che questa situazione sarà sempre più ordinaria, ossia carriere molto discontinue, carriere non all'interno delle stesse realtà, ecco, la proposta che fa lei deve abbinarsi poi con una facilità di ricostruzione contributiva delle carriere professionali che oggi è negata nei fatti, che spesso non c'è, perché sono molto onerose i ricongiungimenti, purtroppo. Allora, invece, Maratin che dice? No, io penso esattamente la stessa cosa, nel senso che l'idea è buona, però deve essere legato proprio a me, nel senso deve essere strutturalmente legata all'età, perché dovendo cambiare lavoro nel corso della carriera più volte si rischia ogni volta di sovrapporre regimi diversi, quindi dovremmo trovare un modo facilmente applicabile attraverso cui diciamo, la funzione crescente dell'aliquota contributiva non è del tutto separata dal lavoro che faccio, ma è proprio legata all'età che ho, e questo dal punto di vista dell'applicazione forse andrebbe studiato, però il concetto lo comprendo e lo condivido personalmente. Seghezzi, altra domanda in comune per entrambi. Guardiamo un secondo in Europa in questo momento. Faccio una domanda a entrambi su quello che abbiamo capito delle 5 ordinanze di Macron e gli effetti stimati in questo caso, sia sull'occupazione aggiuntiva sia su quella per i giovani. Che giudizio dà su questo, Seghezzi? Allora, tutto sommato positivo, poi appunto parliamo di decreti complessi, 200 pagine che intervengono sì. direttamente sulla legislatura. Mi concentrerei sul fatto che comunque vengono messi 15 miliardi di investimento sulla formazione nei prossimi anni, ecco, perché c'è tutta la componente di cui ci dimentichiamo a volte, parlando giustamente dei giovani, della formazione continua anche quando uno giovane non lo è più. No, ma infatti la domanda ha fatto bene, perché io non sono stato chiaro, io non sto parlando di un giudizio generale, io sto parlando su questo, su formazione e giovani, non stiamo parlando quindi del mutare dei severance cost per i licenziamenti, le forme di rappresentanza sindacale sotto i 50 e 20 dipendenti, però su questo lei dice 15 miliardi sono 15 miliardi, Maratin che dice? Ah beh, che 15 miliardi siano tanti nelle intenzioni, è ovvio. No, beh, anch'io sono rimasto colpito anche dal fatto che lui abbia fatto una parziale marcia indietro sull'importanza della contrattazione decentrata rispetto a quella generale, che ormai dappertutto sembra essere il tema decisivo. Però non c'è paragone, gli spagnoli su cui sono stati brutali nel 2012, lui aveva promesso poi nell'estate. Onestamente mi ha sorpreso quello, però il piano è ambizioso, poi la Francia appunto ha una tradizione sindacale molto forte come da noi. E vedremo nei prossimi mesi. Allora, buona battaglia a Luigi Maratin per la legge di bilancio. Io spero che abbia ragione chi chiede di concentrarsi sulle priorità e quindi pochi prepensionamenti. Questo sono sincero, perché per me promettere di qui a 20 anni ai giovani integrazioni al minimo mi sembra una cosa proprio. Non riesco a convincermi della bontà di questa cosa, ma non stiamo parlando di questo. Intanto, grazie a Francesco Seghezzi e a Luigi Maratin. Dopo la pausa della borsa, torniamo con il professor Luca Ricolfi sul tema reati e stranieri profughi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:37 primi e 9 secondi in questo lunedì 4 di settembre. Ritorno alla versione di Oscar dalle 16:17. Naturalmente vedete molta pubblicità, quindi insomma non è che poi proprio raddoppiata davvero, ma insomma, secondo tema, immigrati e reati dei diritti nel nostro paese avvampano le polemiche. È un fenomeno sul quale sono curioso di sapere da qualcuno di voi che telefona all'800 24 00 24, come la pensa. Ve l'ho detto, di 11, la cifra uscita 2 giorni fa, 11 tentativi di violenza consumata quotidiana nel nostro paese, quotidiani, 4 sono attribuiti a stranieri, da una parte. Dall'altra c'è anche chi in quest'estate ha detto attenzione, perché rispetto all'andamento reale del fenomeno della criminalità, della violenza nel nostro paese, c'è una sovrapposizione, sovrarrappresentazione da parte dei media. È uscito uno studio, in particolare il mio amico professor Carlo Boletto Carnevale Maffè ne ha scritto, con alcuni numeri che io vi metto lì nell'orecchio per tenerne conto, anche di fronte al fatto che l'industria dei media e la politica poi tendano a sovrarrappresentare. Che cosa dà forza a chi dice attenzione, siamo sovrariscaldati rispetto alla realtà del nostro paese, che è 4 su 11 stranieri, tentativi di violenza al giorno, violenza consumata? È il fatto che nei primi 6 mesi dell'anno, se andiamo alle statistiche ufficiali, quelle rilasciate da Minniti, il numero di delitti di reati nel nostro paese è sceso: delitti meno 12%, omicidi meno 15%, omicidi di criminalità organizzata meno 41%, persino i femminicidi, sia pur di poco, molto meno, non a doppia cifra, in diminuzione. E Eppure, il trend della percezione negli italiani, nei sondaggi, rimane molto elevato. La preoccupazione per delitti e sicurezza è l'85, l'86, l'84% nei sondaggi. E c'è chi, come Carlo Alberto, Carnevale Maffè, dice ma guardate che i media sono il problema fondamentale, i media e la politica. Perché? Perché? Per esempio, su Rai 1, il 12,5% notizie di Rai 1 è sulla criminalità. Questo rappresenta il doppio della media delle principali reti pubbliche dell'Unione Europea, che è il 7%. Se facciamo il paragone sulla prima rete pubblica della televisione tedesca, l'1% delle notizie è sulla criminalità, rispetto al 12,5% di Rai 1. In Francia l'1,7% rispetto al 12,5%. E che ci sia, la faccio breve qua e andiamo all'ospite, una sovrarrappresentazione da eccesso mediatico e politico nei commenti è determinato anche, è confermato, perdonate, dal fatto che nei sondaggi in realtà la stima della preoccupazione generale degli italiani nella sicurezza, se la si divide in due domande, preoccupazione generale e preoccupazione nell'ambito territoriale in cui vive, si abbatte della metà, cioè passa da oltre l'80, ve l'ho detto, 80, 83, 84, 85% a seconda dei mesi, al 40%. Quindi vuol dire che una sovrarrappresentazione c'è. Ho voluto aggiungere questi altri dati a quello che comunque fa molto riflettere sulle violenze quotidiane, 4 su 11 stimate su stranieri. Allora, per capire se la verità sta in mezzo oppure quale sia la rappresentazione più realistica e come approcciarsi ad essa, e con il professor Luca Ricolfi, sociologo che insegna analisi dei dati all'Università di Torino. Grazie e buon pomeriggio, professore. Buongiorno. Allora, lei che dice innanzitutto? C'è un fenomeno di questo tipo? Ci dia qualche dato aggiuntivo. Ma dunque, la prima cosa che devo dire è che il fenomeno che lei ha descritto, cioè che la preoccupazione generale è molto maggiore della preoccupazione per la propria situazione concreta, è un classico della letteratura, cioè non è una cosa di questo momento, è sempre stato così. Sì. Chi studia queste cose ha sempre rilevato questo contrasto tra la preoccupazione generale, che è molto influenzata dai media, e invece la preoccupazione per quello che succede nel proprio quartiere, nella propria zona, che quello che può capitare alla propria famiglia, che è un po' più influenzata dalla realtà e meno dalla comunicazione. Quindi questo è un classico. Sul fatto che i media sovrarrappresentino, è vero, secondo me, sovrarrappresentano parecchie cose. Forse la distorsione più importante della televisione italiana, almeno secondo gli studi classici, è la politica, non è la criminalità. Cioè, noi diamo un peso alle notizie politiche, anche le più banali, infime, cioè il politico di terzo ordine che ha dichiarato qualcosa su un politico del quarto ordine. Ecco, questo fenomeno di sovrarrappresentazione della politica in Italia è patologico, quindi ci sono tante distorsioni della televisione italiana, probabilmente c'è anche questa della sovrarrappresentazione del crimine, però la distorsione principale è quella della politica. Se poi la smettiamo di discutere dei media e parliamo della realtà, sì, allora mi sembra che i dati importanti sono quelli del Ministero dell'Interno, che sono effettivamente rassicuranti, ma ci sono anche dei dati molto meno rassicuranti di quelli del Ministero dell'Interno, non incompatibili, ma che fanno vedere l'altra faccia della medaglia. Ad esempio, se noi prendiamo il tasso di criminalità relativo degli stranieri rispetto ai nativi e andiamo a vedere com'è la situazione in Europa, la situazione è che nei paesi dell'Unione Europea gli stranieri delinquono 4 volte tanto i nativi. Questo è un dato che fa pensare che l'opinione pubblica qualche ragione di preoccupazione ce l'abbia, ma non basta. La cosa interessante è andare a confrontare tra loro i vari paesi, perché sì, le televisioni possono comportarsi in modo diverso, ma giusto per darvi un'idea, il tasso di criminalità relativo nel Regno Unito è appena 1,3, questo vuol dire che i reati degli stranieri sono il 30% più alti dei reati dei nativi, mentre in Europa il rapporto non è 1,3 ma è 4,1. Se però andiamo a vedere l'Italia, questo rapporto è superiore a 6. Già. Allora, è 6,3. Allora, è vero, magari la nostra televisione parla di più della criminalità, però il tasso di criminalità relativo dell'Italia è 6 volte quello del Regno Unito. Quindi, poi io non credo che, diciamo, la frequenza con cui vengono date le notizie debba rispecchiare la frequenza dei fenomeni. Ripetiamo, in Italia il tasso di criminalità dei non nativi rispetto a quello dei nativi è 6,3. 6,3, sì, queste sono le ultime stime che siamo riusciti a fare come Fondazione David Hume, che abbiamo già pubblicato sul Sole 24. Quindi è un signor problema anche rispetto agli altri paesi europei. Ma guardi, gli altri paesi europei con cui noi di solito ci confrontiamo, quali sono? Spagna, Germania, Francia e Regno Unito, sì. No, sono questi i magnifici quattro, sono tutti sotto il 4, sotto il rapporto medio europeo, soprattutto il Regno Unito, ma anche la Spagna è a 3,7, la Germania a 3,5, la Francia a 3,5, cioè sono tutti sotto 4, noi siamo a livello 6,3. Tra i paesi importanti c'è solo la Polonia che sta leggermente peggio di noi, poi c'è la Grecia che è terribile, in Grecia è 12,5, quindi e tra l'altro a me colpisce che non sia particolarmente tematizzato questo tema della criminalità relativa in Grecia, anche se forse il fatto che ci sia Alba Dorada potrebbe essere un sintomo di questo. C'è un sintomo e una reazione insieme, come dire, perché poi sono fenomeni che alimentano del... Sì, certo. Ma questo 6 rispetto a 3,4 come proporzione del tasso di criminalità relativa dei non nativi rispetto ai nativi nel nostro paese, in cosa può avere giustificazione? Nel tipo della gente che viene qui? Non lo so. A, B, l'esperienza pluridecennale, se non secolare, di alcuni di loro per via degli imperi coloniali, Commonwealth, eccetera, francese, rispetto al fatto che da noi l'immigrazione in realtà esplode solo negli ultimi 20 anni, dai primi anni 90 a oggi, lei che dice? Ma dunque, secondo me ci sono due spiegazioni, diciamo delle cose che contano molto, poi i dettagli possono essercene infinite e minori, ma certo. Le spiegazioni grosse sono due. La prima è che bisogna distinguere tra il tasso di criminalità dei regolari e degli irregolari. Allora, una parte del fenomeno è alimentata dall'irregolarità. Giusto per darvi qualche ordine di grandezza, sì. Gli irregolari delinquono 30 volte di più degli italiani. I regolari solo, tra virgolette, 3 volte. Quindi quel dato che io davo, 6, è una media ponderata tra gli irregolari, che sono pochi, ma hanno un tasso di criminalità spaventoso, 30 volte quello degli italiani, e i regolari, che sono tanti, e che hanno un tasso di criminalità 3 volte superiore a quello degli italiani, quindi sempre preoccupante, ma 10 volte meno degli 30. Irregolari. Questo è il primo elemento. Però, secondo me, ovviamente questo elemento non spiega il tasso di criminalità dei regolari, che resta anche quello comunque tre volte superiore a quello degli italiani. Qui io do una spiegazione, sì. Per cui non ho nessuna prova, quindi ve la do così, come un'intuizione. È la propensione al rischio. Cioè, vi faccio un esempio. Parliamo un po' bene degli immigrati per una volta. Vi ricordate quando sui giornali viene raccontato del bambino che annega e che l'unico che si degna di muoversi per salvarlo è l'immigrato e magari ci perde anche le piume? In generale, chi viene da una situazione economica, sociale, personale, esistenziale difficile ha una propensione al rischio che è molto diversa da quella di un europeo medio educato, civilizzato. Certo. A quello che è successo in quella discoteca spagnola, come mai nessuno è intervenuto? Se fosse avvenuto in un paese sottosviluppato, sarebbero intervenuti tutti e quelli lì non l'avrebbero fatta franca. Invece, un po' per voyeurismo, ma secondo me in gran parte per paura, i nostri cari ragazzi cullati, allevati e imbambagiati non sono intervenuti perché non sono pronti a sostenere una colluttazione con una persona che brandisce un coltello. No, ecco, quindi ha spiegato meglio in cosa può consistere questa propensione al rischio, perché l'espressione non era chiara, invece così l'ha spiegata bene. Adesso abbiamo il traffico, torniamo. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Io lo sapevo che era una puntata questa, la parte della puntata su criminalità e stranieri scivolosa, perché molti di voi naturalmente coprono gli insulti, perché dicono: tu hai detto che non c'è il fenomeno, invece il professore spiega che c'è il fenomeno. No, io dico, partiamo dai dati ministero. I dati ministero rispetto a quanto parla la televisione di criminalità, sovrarappresentazione, però andiamo poi a vedere il tema, cioè quanto delinquono gli stranieri e come se delinquono. Tantissimo, 3 volte gli italiani irregolari, 30 gli irregolari, e comunque rispetto a media dei paesi europei 3 volte la propensione relativa alla criminalità degli stranieri, 3 o 4 nei grandi paesi dell'Europa, da noi più di 6. Sono cifre precise, quindi è quello che sui giornali non avete visto fino a questo momento, scusate se ve lo dico, ma è così. Sentiamo come la pensano alcuni di voi di fronte a queste cifre. Fabrizio da Genova. Fabrizio. Sì, grazie Gianino, grazie di avermi ospitato. Ma io francamente, io parlo da poliziotto, nel senso, io credo che il nostro sistema penale sia calibrato per una compagine sociale che ha un diverso retroterra. E in sostanza io non credo che su persone che arrivano da mondi dove si scavalcano dei cadaveri il nostro sistema repressivo abbia una funzione, si dice, emendante o retributiva. E il nostro sistema penale è per lo più fondato sul principio che la limitazione della libertà personale è l'estrema ratio, e questo è un fatto, e si privilegia sempre un diverso sistema sanzionatorio. E da come la vedo io, il cul-de-sac è che poi il rischio reale è che si debba ricalibrare il sistema e tornando di fatto indietro a noi. Ma Fabrizio, quello che diceva il professor Ricolfi in altro linguaggio, cioè sulla diversa propensione al rischio di chi viene da paesi con diverse condizioni, è esattamente quello che lei, trasposto dal punto di vista della dissuasività del diritto penale nostro, elaborato dalla nostra civiltà evolutiva nel tempo e dalla giurisprudenza della legge, però è esattamente quello che dice lei. E il problema è se noi dobbiamo indurire per loro, e naturalmente significa anche per noi, e questo è un serio problema, perché noi possiamo fare il diritto differenziato per nazionalità dell'indagato, dell'imputato e del condannato. Però Fabrizio ci restituisce l'opinione di un operatore di sicurezza da parte dello Stato, cioè il poliziotto. Marco dalla provincia di Bergamo, che ne pensa? Buonasera Giannino, grazie per avermi chiamato. Ma io l'interpretazione dei dati è una cosa che faccio fatica a dare risposte, non credo di essere così capace o in grado di interpretare i dati. Emerge comunque da quanto avete detto che i nativi sono un po' più diligenti degli parecchio, altri. A dire la verità, non un po' parecchio. Più, parecchio. Quello, il problema che io volevo porre è che oltre ad essere parecchio più meno diligenti, c'è anche il problema che il reato commesso da chi viene da fuori è avvertito in modo più fastidioso dai nativi. C'è dubbio. Cioè, come invitare qualcuno a casa si tua. Si tratti contro il patrimonio, cioè le rapine, si tratti contro la persona, cioè la violenza, eccetera. Ho invitato qualcuno, perché a volte vengono visti come ospite, ho invitato qualcuno a casa mia e poi mi accorgo che si è portato via. Sei venuto qua, allora torna e vai via, come dicono alcuni. Anche Marco aggiunge gli altri elementi. Mara da Napoli, che ne pensa? Buonasera Oscar, sono Mara, grazie per l'ospitalità. No, volevo dire che spero che lo Stato italiano conceda l'estradizione a quei 4 porci, con tutto rispetto. Non tutti sanno, mi faccio dire, che la Polonia ha chiesto appunto l'estradizione dei 4 responsabili della rapina e della violenza ai 2 turisti polacchi a Rimini. Esatto, no, spero questo, perché se restano in Italia sono minorenni, i domiciliari, il patteggiamento, lo sconto di pena, poverini, sono immigrati, un po' di tolleranza, questi domani escono. Allora lei italiani, aspetti Mara, stranieri, la massima punizione per questi reati turpi. Aspetti, perché lei ha toccato un tema, cioè, e dello stesso tema indirettamente richiamato dall'amico poliziotto che ringrazio per la sua telefonata, perché alcuni sostengono che non tanto per i salvati nel Mediterraneo, quanto per alcune altre comunità comunque fortissimamente presenti nel nostro paese e con un tasso particolare di propensione relativa a delinquere per alcuni tipi di reato, conti il fatto che si sappia sappia per certo che in Italia l'ordinamento penale sia molto più corrivo che nel loro paese. Secondo lei, professor Ricolfi, questo elemento può avere un fondamento oppure no? Assolutamente sì, io diversi anni fa scrissi già un articolo per Panorama che si intitolava Italia Mecca del crimine. Per questo è molto chiaro, le informazioni sui sistemi penali in modo informale circolano perfettamente, c'è informazione perfetta, quello che sognano gli economisti liberali e che non si riesce a fare per le merci bene i servizi, però per quanto si rischia per svaligiare una casa o una oreficeria o rubare una persona, questo è molto chiaro. Grazie al professor Ricolfi, perché ripeto, questi numeri secondo me aiuterebbe che i giornali li pubblicassero, aiuterebbe, perché capite che una professione al delinquere 30 volte superiore per gli irregolari è un fenomeno di fronte al quale la politica non può tappare la bocca con il buonismo. 30 volte è un fattore irreversibile di crisi di una compagine sociale. Grazie al professor Ricolfi, appuntamento domani mattina per chi può con alle 8:15 con me e Luca Telese, e nel pomeriggio domani alle 4:00.